Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. In una puntata recente abbiamo raccontato della sperimentazione in corso al centro di riabilitazione di Villa Beretta, dove si sta sperimentando appunto RP Light, una sorta di avatar robotico di forma vagamente umana con uno schermo al posto del volto che specialisti da tutto il mondo possono prendere in prestito per visitare a distanza i pazienti. Parliamo di persone tutte con gravi danni neurologici. A utilizzarlo quotidianamente sono però i medici dell'unità operativa di neurologia dell'ospedale Valduce di Como, con a capo Mario Guidotti, primario, con il quale questa sera continuiamo a parlare di telepresenza medica. Buonasera Guidotti, bentornato. Buonasera Melis, grazie della telefonata. Allora, c'è un progetto al quale state lavorando per cercare di estendere questo concetto un po' dell'avatar, della telepresenza, dello specialista che visita a distanza, con l'idea di estenderlo, di allargarlo a una platea più ampia. Di cosa si tratta? Sì, allora, noi abbiamo già in essere questa sperimentazione di tipo neuroriabilitativo, per cui malati neurologici colpiti da danni, noi continuiamo a visitarli a distanza di 25-30 km presso il nostro centro di riabilitazione e i riabilitatori da là vedono i nostri malati acuti qui, per cui di fatto non si spostano più gli specialisti in quest'area. Però si è subito capito che questo strumento è particolarmente indicato anche per malati acuti, abbiamo già preso contatto con pronto soccorso della zona, non dotati di guardia neurologica, dove noi possiamo andare con questo strumento a portare una guardia neurologica, quindi a portare un valore aggiunto specialistico per malati colpiti che possono essere trattati già presso centri dove non c'è il neurologo. Abbiamo spiegato l'ultima volta che, per esempio, nel caso di ictus, ogni minuto che passa si perdono cellule nervose, quindi lì è fondamentale la rapidità. Abbiamo detto che il tempo è cervello. Esatto, esatto. Ecco, e quindi voglio dire, come pensate si possa estendere questo ragionamento? Il terzo passo che vogliamo proporre ai malati e anche all'azienda che produce questo strumento è di portare a casa dei malati questo strumento. Questo consentirebbe di applicare la strumentazione robotica anche a malati cronici che appunto sono a casa. Io penso ai malati neurologici perché è il mio settore, sì. Però ci immaginiamo che anche altri settori ne possano largamente beneficiare. Cioè ci sono cronici, per esempio, difficili da spostare, no? Malati che per spostarli sono previsti dei costi di tempo e di mezzi enormi anche per le famiglie. Immaginiamo i malati affetti da SLA, da sclerosi laterale amiotrofica avanzata, o malati parkinsoniani avanzati, o malati che hanno una demenza con disturbi del comportamento di difficile gestione. E questo solo per la parte neurologica, poi sono gli scompensati, cardiaci, tutto il resto. Ecco. E quindi qui cosa possiamo immaginare? Ecco. Possiamo immaginare che questo strumento rivisto, diciamo ridisegnato in maniera trasportabile, e ci immaginiamo che sia possibile farlo, uno strumento che possa pesare 4-5 kg, che possa essere messo in uno zaino, okay, dove un operatore sanitario, un infermiere o anche lo stesso medico di medicina generale, cioè il medico di famiglia, sì, del malato, applica lo strumento al malato e ci trasmette e le immagini del malato oppure dati strumentali del malato come parametri vitali, come per esempio una registrazione elettrocardiografica, ecocardiografica, e qui appunto le applicazioni anche in altri settori. Benissimo, benissimo. I benefici quali sono di questo tipo di approccio? Abbiamo detto intanto di costi, sostanzialmente rispetto a certi malati che hanno un costo elevatissimo, certo, di spostamento. Ci immaginiamo che questo possa prevedere degli abbattimenti di costi indiretti. Provate a immaginare le famiglie che devono prendere delle mezze giornate, certo, di permesso per portare questi malati, devono chiamare le ambulanze per trasportare questi malati, e quindi sono malati che, se visti a casa, ne beneficerebbero dal punto di vista gestionale e quindi anche economico, e perché no anche con una deospedalizzazione del malato, nel, certo, senso che se noi riusciamo ad alleggerire, a decongestionare gli ospedali che hanno delle enormi liste d'attesa, sicuramente facciamo un bel servizio anche a chi dell'ospedale ha strettamente bisogno. A me viene in mente che se un oggetto del genere fosse a bordo delle ambulanze, forse sì, potrebbero salvare un bel po' di persone, no? Dove chiaramente non se ne parla di avere specialisti, non sempre ci sono dei medici, certo, nemmeno a bordo delle ambulanze, no? Se l'ambulanza applicasse subito questo strumento ai malati trovati condizioni in uno stato gravi, acuto di emergenza, certo, non solo potrebbe decidere dove trasportare l'ammalato, ma allertare il pronto soccorso dove lo specialista prepara lo strumento giusto, dico libera l'attack piuttosto che prepara il sangue o, certo, la radiologia, per dire, insomma, anche qui si guadagnerebbe tempo, e anche in altri settori non neurologici il tempo è fondamentale. Assolutamente. Senta, a che stato di sviluppo è questo progetto, quindi questa sorta di robot da zaino? Allora, siamo sicuramente in una fase molto progettuale ancora, diciamo prematura. L'abbiamo proposto all'azienda, l'azienda ovviamente si è subito ingolosita e sta preparando una risposta alle nostre richieste. Dal punto di vista, diciamo, del percorso del progetto clinico, noi siamo avanzati, pensiamo di proporlo addirittura a Regione Lombardia per vantaggi clinici sui malati e anche di costi di gestione sanitari che in questi tempi sono particolarmente graditi. Ecco, facciamo una puntualizzazione per chiudere. Non stiamo parlando di sostituire il medico con un robot, ma fare qualcosa di diverso, no? Al contrario, portare il medico dove il medico non c'è e portare lo specialista ad assistere il medico di medicina generale, spesso solo sulla gestione del territorio, ad avere un supporto fondamentale. Grazie Mario Guidotti. Grazie a voi, buona serata.